Mi passi adesso lascio odore e tengo sapore che viene voglia di leccare, di poter stringere e gustare. Ti muovi così, se tu ti muovi.